Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Extremely dangerous. Keep out of reach of children. Cool. Si è aperta così la seconda parte di Eclettica, si è aperta con questo brano degli Shoo Shoo. So quanti fra coloro che ascoltano Eclettica apprezzano gli Shoo Shoo e quindi, visto che mi è arrivata questa raccolta, questo Sample Mare, Sur la Mer per la 5RC, questo è il nome dell'etichetta che conteneva tanti inediti, ho scelto la traccia numero 2, cioè quella degli Shoo Shoo, dal lunghissimo titolo, per cui vi rimando alla playlist. Non sto qua a leggerlo, perderei veramente troppo tempo. E poi mi dà anche l'occasione per ricordarvi uno degli altri motivi per cui utilizzare l'indirizzo giulio@radiorockfm.com, ovvero sia iscrivervi alla lista nera di Eclettica, in questo modo ricevere appunto la playlist della trasmissione. La 5RC Records è l'etichetta che era stata fondata nel 1997 da Slim Moon con il primissimo disco dei Deerhoof, e infatti ero indeciso fra questo brano degli Shoo Shoo, un altro inedito dei Deerhoof, però alla fine, per i motivi che già vi ho detto, ho fatto effettivamente questa scelta. Ora ci trasferiamo invece in Marocco, per la precisione a Marrakech, dove si trova un ristorante il cui nome è Comptoir Darna. In questo locale non solo si mangia, ma si fa dell'ottima musica, si ritrovano i migliori DJ e i migliori musicisti legati alle tradizioni orientali, ed è nata la grande orchestra del Comptoir di Marrakech, che va ad unire le melodie orientali con il dance, il jazz, il blues, la classica, rendendo tutto questo molto piacevole, non nascondiamocelo, soprattutto per il pubblico occidentale, cioè per noi. Noi ci ascoltiamo dal disco intitolato Kamsa, un brano che ha per titolo a sua volta One Another Dream. Thank you. 11 febbraio, martedì grasso. Siamo arrivate con il vento del carnevale. Un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle cialde friabili e dolci, cotte alla piastra proprio sul bordo della strada, con i coriandoli che scivolano simili a nevischio da colletti e polsini e finiscono sui marciapiedi come inutile antidoto contro l'inverno. C'è un'eccitazione febbrile nella folla disposta lungo la stretta via principale, i colli che si allungano per vedere il carro fasciato di carta crespata, con i suoi nastri svolazzanti e le coccarde di cartoncino. Questo era l'incipit di Chocolate, di Joanne Harris. Genius. Bush saw the towers fall before the planes went in them. Bush saw his father's fall, finance and hit the system. I'm dead walking, I'm destined for the coffin. Judas got a Jesus piece to stop me from talking. I ain't afraid, I embrace this war. It ain't living till you know what it is that you'll die for. Don't say this, don't say that, change your lyrics. Everybody's a critic, it's getting kinda hectic. My rhymes are authentic, so they shall remain. My writing exciting and never mundane. In actuality, my personality keeps my mentality based on real life situations, not speculations, but verbal illustrations of how I feel. We sacrifice the Aztec style, as food for war, right here at home. il più bel disco di hip hop da parecchio tempo a questa parte, mio soggettivissimo giudizio, come tutti quelli che esprimo in trasmissione e sulla lista nera. Soft Money da parte di Gel, fra l'altro dopo qualche settimana in cui abbiamo ascoltato Sweet Criminate siamo ritornati sul brano che originariamente vi aveva fatto conoscere questo disco, ovvero sia WMD. Giulio Caperdoni nella seconda parte di Eclettica, che vi ricorda i biglietti per il 28 di questo mese alla Casa 139 di Milano per la serata denominata DVD Recording di Marco Parente, e vi fa ascoltare un artista irlandese che sarà anche oggetto di pillola in settimana, questa settimana numero 36, Fionn Regan è il nome dell'artista, che uscirà all'inizio del mese di agosto, il 7 se non ricordo male, per Bella Union, un album dal titolo The End of History, un album molto molto semplice, chitarra e voce e quasi niente altro da parte di questo artista che noi ci ascoltiamo con un brano dal titolo Andres Map. And you said, is that how we are? me, ci hanno fatto ascoltare Empty Alcohol Bottle e così siamo arrivati in chiusura di quella che è la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM o anche sul podcasting di Rock FM. Si chiude con i Low, si chiude con i Low che sono usciti con un EP contenente diverse versioni oltre all'originale di Tonight the Monkeys Die. Immagino che molti fra voi conoscono questo brano nella sua versione originale. Ecco, ora ce ne sono 5 versioni remix. Questa seconda parte si chiude con la Crew Jones Remix. Contours of the cosmos cross the window of the constable's office. Down for the count of the countdown, round about the brickies to the downtown. They're everywhere, even I'm irrelevant. I regret the memory, but I never forget it. Grab it and get it and get a grip of it. Let it get away from your sun, serendipitous. Like a headache, drops like an egg, you're down to the bedrock fence. Let's go. And the gun that you threw in the lake gets pushed back up on the beach by the waves. And you found your hand on the waist of the one that's bound to drown today. And the clouds on the horizon keep rising, rising, rising. Tonight you will be mine. Eclettica, fine della seconda parte.